Preferite che parlo italiano o che parlo inglese? Perché non so. Italiano. Se per te va bene. Dunque, che cos'è Streampunk? Streampunk in realtà è. Streampunk è un servizio di streaming pensato per le radio. In teoria dovrebbe supportare anche i video, ma non l'abbiamo nemmeno mai provato. È basato su Icecast, se per chi sa che cos'è Icecast, la caratteristica principale è di essere resiliente, distribuito, ma comunque minimale nell'uso delle risorse. Minimale nel senso che molte soluzioni che esistono per fare sistemi distribuiti tendono a pensare al molto grande, alle decine, centinaia di nodi a disposizione. Noi volevamo un sistema distribuito che scalasse in basso. Cioè che fosse resiliente. Lo fa? Ok. Un sistema che fosse resiliente anche a partire da soli 3 nodi. Dunque, Streampunk in realtà è il nome del servizio che offriamo, ma il software si chiama Autoradio. Streampunk.cc, se internet funziona, è l'indirizzo a cui abbiamo soltanto la pagina di presentazione e niente, qui potete vedere un po' di informazioni su di noi. Attualmente, se vi interessa partecipare e quindi usare questo servizio, cioè fare streaming su questo nostro servizio, dovete semplicemente mandarci un'email. Non abbiamo una procedura più complicata di così. Vi faccio intanto vedere invece l'home page del servizio vero e proprio. Sempre quando funziona. Vabbè, ci sarà una pagina di presentazione tra un pochino, ecco. È simile a quella di un Icecast, cioè questa è la lista dei mount point che abbiamo, quindi ci sono varie radio che stanno attualmente streamando e questo è il numero dei loro ascoltatori. Ok, questa non era la parte interessante. Quindi, che cos'è però la parte che in qualche modo crediamo che sia unica di Streampunk? È che questa è la lista dei mount point e questa è la lista dei nodi. Cioè, questi qui sono 3 computer, vapore, tender e carrello, che sono attualmente attivi e si distribuiscono il carico. Allora, vediamo un po', come funziona. Dunque, il software che usiamo è Autoradio, il codice lo trovate a questo indirizzo, ma è scritto vaffanculo. Ma perché prendo la scossa? Ah no, sul microfono. Ok. aspetta, mi sono perso. Un attimo, che la ritrovo. Oh no, non abbiamo il link pubblicato. Allora, l'unico link che trovate è questo. Questo è il link al repository Git del progetto. Il progetto è scritto in Go. È scritto in Go perché il suo principale sviluppatore ama Go, e anche perché è un buon linguaggio per scrivere sistemi distribuiti. Vabbè, innanzitutto il perché offrire un servizio di streaming. Crediamo che lo streaming e le radio siano qualcosa di importante in generale, e crediamo anche che le soluzioni che avevamo attualmente non siano abbastanza buone. Cioè, è molto semplice lanciare un Icecast, e Icecast funziona abbastanza bene, però è difficile fare un Icecast che abbia dei vantaggi che gli permettono di scalare. E però scalare è importante da molti punti di vista, anche dal punto di vista economico. E però abbiamo dovuto scrivere un nuovo software perché ci sembra che molte delle soluzioni che esistevano non andassero abbastanza bene, e anche perché era molto divertente. Scrivere queste cose è piuttosto divertente. Una caratteristica delle radio, che probabilmente saprete, è il fatto che il traffico non è costante, non è nemmeno vagamente costante, tende ad avere una piccola oscillazione e poi dei picchi molto alti. Se, anche se tu puoi prevedere questi picchi, e non sempre puoi prevedere i picchi, ma se puoi prevedere i picchi, cosa fai? Cioè, diciamo che tu hai una tua radio, in genere hai 50 ascoltatori, e hai un piccolo server Icecast che funziona bene, ma prevedi di averne 1000 domani. Cosa fai? Niente. Non fai niente, perché... qualcosa puoi fare, però non sono ottime soluzioni. Icecast ha un meccanismo di relay standard. Come funziona un meccanismo di relay? Un meccanismo di relay funziona che un server Icecast può fare relay e quindi fare la copia di un altro stream che viene da un altro server. Quindi c'è un server padre e vari server figli. C'è un problema, non c'è un meccanismo che dica ai client di non intasare il master e di andare sul nodo più libero. E questo vuol dire che questo meccanismo va messo altrove. Alcune radio lo mettono dentro il player web. Perché lì è semplice, perché in JavaScript puoi mettere un meccanismo per fare routing dei client, ma in generale questo non c'è, Icecast non lo fa. E quindi il master è il single point of failure. Se il master per qualche motivo si spegne, è finito tutto. Saremmo stati sfortunati noi, ma il giorno delle manifestazioni il master si spegne sempre. C'è sempre qualcuno che il giorno prima fa pt-get upgrade, il server si rompe e tu sei rimasto senza server di streaming. Questa era la nostra realtà. Geese.tv ha fatto delle patch di Icecast, che sono molto buone, in cui il master può fare redirect al relay meno carico. Quindi i relay non solo copiano il master, ma lo informano di quanto sono carichi. Quando una richiesta del client va sul master, il master gli dice dove deve andare e quindi fa un redirect. Questo è meglio perché almeno distribuisce il carico, ma di nuovo il master è il single point of failure e noi non volevamo avere single point of failure. Quindi noi vogliamo un sistema tale che se una macchina si rompe, il sistema rimane su. Ok, il microfono ha smesso di funzionare? Si sente più piano. Beh, è la stessa cosa. Vabbè, ok, ottimo. Vabbè, questo qui è una parte che avevo detto anche prima. Cioè, volevamo avere un sistema semplice che è in grado di scalare in basso e che quindi può usare un numero di risorse minimali. Perché molti sistemi distribuiti sono sì distribuiti, ma richiedono molte risorse. Quindi magari possono fare a meno di un nodo non è cruciale, però poi servono nodi molto costosi perché magari consumano moltissima RAM e allora non si risolveva il problema, nel senso che noi dovevamo poterci permettere, se un sistema costa troppo noi non abbiamo i soldi per averlo, quindi non risolveva il problema. Vogliamo un sistema che sia piccolo ma comunque resiliente e che quindi faccia comunque tutto quello che serve. Autoradio lo fa utilizzando moltissimo etcd. Quanti di voi conoscono etcd? A posto, perfetto, era la risposta che mi aspettavo. Etcd è una cosa fichissima, è un protocollo distribuito che permette di creare un cluster e questo cluster gestisce un key value store, quindi permette di settare una chiave ad un valore. Ad esempio, non so, tu vuoi settare una variabile ad un certo numero e etcd la setta e la setta su tutti i nodi del cluster, ok? Ti dà questa garanzia e sa gestire perfettamente il fatto che un nodo può andare via e cose del genere. Quanti di voi hanno mai studiato sistemi distribuiti? Uno, ok. Potreste sapere che alcuni dei problemi classici di un sistema distribuito, ci sono alcuni problemi molto complicati che poi alla fine sono sempre lo stesso problema. È il problema della master election o anche chiamato il problema del consenso. Sono tecnicamente lo stesso problema da due punti di vista. Un problema è, siamo un gruppo e vogliamo eleggere un master. Va bene uno chiunque, non abbiamo preferenze, però ci deve essere un master. E tutti devono essere d'accordo sul fatto che sia un master. La stessa cosa possiamo anche dire, vogliamo poter decidere su un valore. Vogliamo poter proporre dei valori e concludere su un valore. Va bene un qualsiasi dei valori proposti, però dobbiamo essere tutti d'accordo sul valore che stiamo raggiungendo. Questo è lo stesso problema e TCD offre delle primitive semplici per farlo. Il modo in cui internamente funziona TCD è complicato, ma il modo in cui si usa TCD è molto semplice. Sì, alla fine gli dici voglio eleggere un master all'interno di un particolare gruppo e lui dopo un po' ti dice il nome del master che ha eletto e te lo trova. E noi questo qui lo usiamo tantissimo, perché che cosa facciamo? Autoradio funziona così, ogni nodo ha TCD, ok? E nel key value store di TCD c'è la lista dei mount point. Quindi quando una nuova radio viene da noi e ci dice ciao, anche noi vorremmo fare streaming su StreamPunk, noi la aggiungiamo alla lista dei mount point e ci mettiamo anche uno username e una password dentro a questo valore in questo database distribuito. Poi per ogni stream noi decidiamo chi è il master di quello stream. Quindi non c'è un master unico per tutti, ma c'è un master per ogni stream. Questo non fa tanta differenza, cioè se c'era un master unico o c'è un master per ogni stream è un piccolo vantaggio, non vi ci impegnate troppo. Però ogni stream ha un master e gli altri nodi sono invece dei relay. Ok, quindi adesso quello che abbiamo ottenuto è soltanto che abbiamo dei nodi che si autocoordinano, però fanno ancora tutto quanto come faceva già Icecast in fondo. Dov'è che iniziamo a fare le cose più divertenti? Sul traffic flow. Noi redirigiamo i client sia con i DNS e sia con HTTP. Partiamo dal DNS, perché in teoria tutto doveva funzionare solo con i DNS. Il trucco è che Autoradio è un authoritative name server. Avete presente come funziona il DNS, gli authoritative name server? Quindi quando voi risolvete s.streampunk.cc, adesso aspetta ve lo apro il terminale. Quanti risultati. Ah, mi sa che in questa rete sono bloccate le richieste DNS ai server principali, no? Posso fare trace? Ok, la parte NSSEC legge tutto quanto un po' illeggibile, quindi evidenzierò. Streampunk.cc è il name server autoritativo, ok? Anzi no, prima vado su streampunk.cc, poi s.streampunk.cc. Porco Dio! È una trappola questo coso, eh? Questi sono i server autoritativi, la riga si legge così. Dei server autoradio che sono vivi, perché un server potrebbe anche essersi spento nel frattempo, ordinata in base al carico, quindi il primo in alto è quello più leggero. I client DNS in genere preferiscono il primo risultato e chiedono, fanno le richieste a lui, ma questo quindi sembra risolvere il problema. Se tu fai così, quindi metti insieme il server Icecast e il server autoritativo, puoi fare delle cose molto fighe. Se adesso un server va giù, i server autoritativi sono sempre tre, ma tutti quanti ritorneranno soltanto due risultati, Anzi, no, uno non risponderà perché è morto. E l'altro, gli altri risponderanno solo con due risultati, solo dei server vivi. Questo sembra già bellissimo, c'è un problema, il DNS lo implementano tutti sbagliato. E cioè il problema è questo, il DNS non è un metodo pratico per fare traffic flow, perché esistono le cache. Quindi il DNS sapete che è a catena, quindi ci sono vari resolver, e ogni resolver potenzialmente aggiunge problemi, perché aggiunge cache. A volte alcuni resolver da soli mettono soltanto il primo risultato, quindi non fanno fallback. Ne fanno praticamente di tutte. Alcuni ordinano invece sempre per numero, quindi ti danno sempre quello con l'IP più basso. I resolver le fanno praticamente di tutte, quindi il DNS va bene per controllare il grosso delle persone e per iniziare a indirizzare, ma devi sempre tenere in considerazione che qualcuno andrà sul server sbagliato. Ma io la voglio girare soltanto sul tavolo la mano. Forse ha toccato il computer, boh, vabbè. Vabbè, ma non fa niente. Se tollerate le mie bestemmie, ok. Traffic flow. Ecco. Quindi, che cosa succede? Una volta che il client ha fatto la query DNS, che potrebbe essere stata fatta bene o potrebbe essere stata fatta un po' male, a quel punto fa la richiesta HTTP. E noi però anche a livello HTTP rifacciamo traffic flow. Quindi usiamo i redirect. Mi metti le porte USB così? Violento. Sì, ma non so scrollare le pagine. No, non lo so fare. Quindi facciamo delle richieste HTTP e di nuovo i server in HTTP rifanno traffic flow, similmente a come faceva Icecast con le patch di GIS. All'inizio noi lo facevamo con i redirect HTTP, che sembravano il metodo giusto. C'è un problema. Molti client di molte... fammi pensare... ad esempio molti client per iPhone... che sono fatti per ascoltare le radio, non capiscono i redirect. Ci sono moltissimi player che sembrano parlare HTTP, ma non capiscono nemmeno i redirect. E quindi si aspettano che immediatamente arriva uno stream. E se tu gli fai redirect, non funziona. E quindi non sempre noi possiamo fare un redirect. E alla fine l'abbiamo dovuto... alla fine l'abbiamo dovuto disabilitare. Questo meccanismo di redirect. Però comunque il traffic flow ci è utile per gestire sia il carico e sia la lista dei nodi vivi. Cioè adesso abbiamo eliminato il single point of failure, essenzialmente è grazie al DNS che noi abbiamo tolto il single point of failure. Quello è il trucco che abbiamo usato. Sì. Magari. Allora, sì, lo potremmo fare, però veramente non ci va di mettere dentro al codice questa lista. Ma c'è anche un altro problema, cioè che molti client fingono. Ad esempio, è ancora meglio nel caso dei client sorgenti, quindi di quelli che mandano lo stream. Il caso che più abbiamo odiato è BAT. Che nome? Perché BAT si identifica come un client HTTP 1.1, ma poi in effetti non implementa HTTP 1.1. Quindi se si dichiarava come HTTP 1.0, allora funzionava perfettamente. Però si identifica nel modo sbagliato e poi non lo implementa, il che rompeva le librerie in Go, perché le librerie in Go si aspettano che quando parsano l'HTTP, se vedono che inizia con HTTP 1.1, poi iniziano a parlare HTTP 1.1 e si aspettano che anche il client lo faccia. Invece il client violava varie parti di questa implementazione e quindi erano rotti. Quindi a volte no, a volte i client mancano completamente, non impostano lo user agent, oppure ne impostano uno sbagliato per fingersi un altro. Quindi bisognava inserire dei trucchi veramente avanzati per imparare a riconoscerli e non volevamo farlo. Quindi, però sì, certo, quella sarebbe stata una soluzione, però abbiamo preferito evitare. Una parte a cui che ci è piaciuta molto pensare era il criterio con cui dividersi il carico. Cioè, ora che abbiamo un modo per essere altamente affidabili, quindi senza single point of failure, e anche poter distribuire il carico, come dovremmo distribuire il carico? Cioè, qual è la risorsa scarsa? In genere si tende a pensare che la risorsa scarsa, almeno prima era così, era la banda. Cioè, sul processamento degli stream, la banda era la risorsa che non doveva mai mancare. Però anche calcolare la banda non è semplice. Perché non è semplice? Non è semplice perché ormai la maggior parte degli stream hanno bitrate variabile. Cioè, MP3 supporta sia bitrate variabile che bitrate medio che bitrate costante. OGG praticamente supporta soltanto bitrate medio. Cioè, si potrebbe forzare, ma non lo fa nessuno. Ma il nostro server non controlla gli stream audio, quindi non sa cosa aspettarsi. Uno stream potrebbe cambiare bitrate nel futuro. Quindi semplicemente contare gli ascoltatori, che è la metrica che usava Icecast, per noi non era una buona metrica. Perché stream diversi possono avere qualità molto diverse. Magari una radio streama a 320 e un'altra radio streama a 64. E quindi è già molto diverso. Inoltre, sul futuro la qualità può cambiare. Ad esempio, il caso di Opus ci sembrava quello più interessante, che è un codec che sa riconoscere la voce e la musica e quindi adattare il bitrate in base a quanto bitrate merita, in modo molto dinamico e che ci sembra molto promettente per le radio. E quindi, anche se adesso non lo usa quasi nessuno, per il futuro vogliamo iniziare a pensare in prospettiva. Quindi il solo conto degli ascoltatori in realtà non era un ottimo conto. Un'altra questione è che i server che abbiamo preso noi ci hanno fatto notare come ormai la banda costa meno di altre risorse. Cioè, noi abbiamo comprato dei server che hanno 200 megabit di banda, ma pochissima RAM, 1 giga di disco e una CPU ARM. Bellissimo, bellissimo. Ti danno dei server fisici, ma ARM, che sono dei system on chip, e quindi hanno tantissima banda, ma poca capacità. Quindi bisognava pensare ad altre metriche. In realtà, per adesso, noi non siamo riusciti a pensare a molte altre metriche. Abbiamo inserito comunque il conto degli ascoltatori e il conto della RAM. Però abbiamo fatto un bel sistema tutto modulare in cui tu puoi infilare la tua logica di distribuzione del carico e così ci siamo divertiti senza veramente risolvere un problema e per il momento in realtà ci va bene così. Però più avanti vedremo che c'è un punto in cui è più problematico. Esatto, che è il transcoding. Che cos'è il transcoding? Il transcoding è quando offri lo stesso flusso audio in differenti formati o nello stesso formato ma con differenti qualità. Ad esempio, per offrire lo stream a bassa qualità pensato per chi ha, per chi paga la banda, per esempio sullo smartphone, oppure per connessioni lente. A volte bisogna offrire stream a multipla qualità. Come si fa ad offrire stream a multipla qualità? Ci sembra che fino a... La soluzione classica è che o lo fa la radio stessa, quindi la radio manda due flussi in due qualità diverse. Questo dal punto di vista nostro è semplicissimo, non dobbiamo fare nulla. Però non è ottimale per la radio, perché la radio vuol dire che manda due stream e concettualmente è sbagliato. Allora si potrebbe fare invece il transcoding sul server. Icecast ha un supporto al transcoding, ma ci sembrava un supporto un po' debole, e allora l'abbiamo reimplementato in un modo che è bruttissimo, che però funziona molto bene. E ringraziamo Radio Blackout per questo, perché loro l'hanno implementato per primi. Cioè, funziona così: tu puoi creare oltre a creare dei mount point, puoi anche creare dei transcoded mount point. Quindi dici: io ho un mount point e ne creo un'altra versione transcoded. Questo è tipo un relay, ma che cos'è? C'è un client che ascolta lo stream dal master, ne fa la transcodifica e la rinvia. Quindi ci sono due mount point e sempre Autoradio fa questo gioco in cui ascolta da uno e rimanda sull'altro. Quindi noi facciamo quello che la radio fisica avrebbe dovuto fare. Il vantaggio è che in genere noi abbiamo più banda perché abbiamo dei server, un'infrastruttura, ma magari invece se vuoi fare streaming da qui la connessione è media e non vuoi sprecare banda. E quindi in pratica funziona bene. Ma il transcoding costa in termini di CPU, cioè e soprattutto costa quando hai tante radio con pochi ascoltatori. Se hai 10 radio, ognuna con 20 ascoltatori, ma divisi ognuna a due formati transcoding, devi fare 10 processi di transcoding per servire 200 ascoltatori. La risorsa scarsa inizia a diventare la CPU, da che prima era la banda. Quindi su questo probabilmente tra poco inizieremo a fare delle metriche che tengano conto anche della CPU, perché stiamo per raggiungere il limite in cui le CPU sono quasi sature mentre la banda è ancora molta, e quindi bisogna distribuire bene la creazione non del traffic flow ma del carico sui server. Cioè quando eleggi un master per decidere chi è che fa il transcoding, anche questo viene fatto con etcd, ma bisognerebbe escludere dalla lista i server che sono già troppo carichi e stanno facendo troppi transcoding. Client. Non so se avete mai guardato la libshout o se conoscete chi la mantiene. Stringetegli la mano quando lo incontrate, perché la libshout è praticamente incomprensibile. Noi abbiamo scoperto, facendo queste cose, che Icecast non è veramente un server HTTP. Non capisce quasi niente di HTTP, ma sembra circa un HTTP che funziona con molti client, ma in generale non capiscono HTTP. Quindi ad esempio se ne fai un proxy, il proxy non funziona. Loro implementano moltissime parti che fanno parte del protocollo HTTP, le implementano in un modo diverso da come il protocollo HTTP diceva di implementarle. E questo si vede praticamente in ogni componente di quelli che fanno radio. Cioè la libshout è fatta così, Icecast ha cose del genere. Molti client non usano affatto nessuna libreria per fare HTTP e lo reimplementano in 4 righe di codice. L'ho visto fare davvero, perché poi siamo messi a guardare i codici sorgenti. E quindi su questo era anche un consiglio, come dire, di ecologia per chi di voi usa software di radio e cose del genere. Usate software di radio che hanno le parti HTTP scritte come si deve. Noi ci siamo trovati benissimo con Liquid Soap, che ha una parte di HTTP scritta bene. Ce ne sono anche altri, ad esempio Mix, con mia sorpresa, ha un buon supporto ad Icecast, ad HTTP in generale. Immaginavo io che fosse una cosa fatta male, messa così, invece è fatta molto bene. E ce ne sono sicuramente degli altri, però ecco, alcuni client Icecast sono veramente veramente problematici, e anche molte applicazioni per smartphone non capiscono affatto HTTP, e quindi in pratica ci impediscono di usare il redirect, ci impediscono di usare molte feature che sarebbero per noi utilissime per distribuire meglio il carico. Questo è quanto. Domande? Ah, certo. In generale per Streampunk richiede almeno tre, Autoradio in generale richiede almeno 3 nodi, non si può fare un cluster con meno di 3 nodi. Richiede anche che quei 3 nodi siano connessi direttamente, il che in genere vuol dire che non devi essere dietro NAT. Probabilmente si può fare qualche trucchetto di rete per farlo andare dietro NAT, ma dovresti cercare di evitare. E una cosa che non ho detto e che avrei dovuto è che Streampunk è un sistema distribuito ma non è un sistema federato. Questo vuol dire che il carico è distribuito, che non ci sono master, ma comunque tutti i nodi devono essere gestiti in un modo coerente e quindi grosso modo da una singola entità. Ad esempio noi non manteniamo retrocompatibilità sui protocolli interni da una versione all'altra di Autoradio. Autoradio ad una certa versione parla solo con gli autoradio della stessa versione, perché si assume che tutti i nodi sono gestiti tutti insieme, si aggiornano tutti insieme. E potremmo anche gestire qualche forma di compatibilità, ma non è possibile pensare ad una forma di federazione. Per federarsi bisogna unirsi in un gruppo solo, non è possibile mettere insieme reti tra pari, perché tutte quante le cose che ho detto prima assumono sempre che ci sia una singola lista di mount point, è tutto quanto coordinato in un singolo gruppo. E questo in parte è un limite, però abbiamo visto che i sistemi federati erano troppo problematici, perché molte di queste scelte necessitano di essere fatte tutte insieme. E in un sistema federato non puoi sapere per definizione, non puoi ottenere il consenso con gli altri. In un sistema federato non si può. Se puoi ottenere il consenso con un altro, non è un sistema federato. E quindi abbiamo preferito fare un sistema senza single point of failure, ma non federato. Mentre il sistema di relay classico di Icecast, quello può essere un sistema federato, però ha il single point of failure. Per adesso noi non siamo riusciti a pensare ad una soluzione che fosse sia federata sia senza single point of failure, però in realtà non ci è sembrato tanto importante, nel senso che un'istanza di StreamPunk è semplice da gestire e una delle caratteristiche, io non l'ho detto bene prima, ma per noi adesso è molto semplice. Torniamo alla domanda iniziale: domani si prevedono 1000 ascoltatori e attualmente la capacità è solo di 300. Come fai? Noi possiamo adesso, in un attimo, comprare dei VPS che hanno molta banda, li compri ad ore, quindi soltanto per il tempo che prevedi, in pochissimo tempo fai il deploy, questione di minuti, sono due comandi da copia e incollare, e i nodi automaticamente si uniscono al cluster e partecipano tutti quanti insieme. Quando quei nodi non ti servono più, tu semplicemente fai shutdown, i nodi li spegni e quei nodi escono dal cluster e continua a funzionare tutto. Quindi hai scalabilità verso l'alto, molto semplice. E per adesso diciamo che la scalabilità verso l'alto si limita, diciamo che non mi aspetto che funzioni bene oltre i 9 nodi. Non me lo aspetto perché etcd non funziona bene quando i nodi sono troppi. Però in Autoradio stiamo iniziando a scrivere un supporto per fare in modo che ci sia un gruppo di nodi che gestiscono etcd e che quindi gestiscono il consenso, che magari sono dai 3 fino ai 7, e poi un'altra serie di nodi che fanno comunque parte di Autoradio e che però non fanno parte di etcd. Quindi loro possono essere anche i master di uno stream, ma le decisioni non le prendono loro. E questo permette di scalare ancora di più. Però il caso d'uso per una rete federata in realtà per noi non c'era. Possono stare fisicamente nella stessa intranet, che in realtà è il caso attuale dei server che abbiamo. In realtà questo non è ottimo, nel senso che a volte i nodi falliscono per interi data center. Per esempio, non lo so, in Italia c'è stato un caso famoso in cui hanno fatto problemi di peering, quindi hanno sbagliato le rotte BGP che andavano ad Amsterdam e quindi se avevi server ad Amsterdam non erano raggiungibili. Quindi se tu metti tutti i tuoi server ad Amsterdam, quei nodi vanno giù tutti insieme. Se tu invece ne dimetti un nodo in Italia, uno ad Amsterdam e uno in Africa, è meglio. Però puoi, noi attualmente facciamo così, perché ci conveniva economicamente. Ridimmi la domanda, scusami. No, affatto, puoi metterle distanti. Non c'è bisogno di usare VPN. Dunque, etcd supporta da solo un sistema di... comunica direttamente in chiaro esponendo le porte, ma in chiaro nel senso comunque cifra i dati con una CA che tu crei, quindi c'è una certification authority che viene usata per cifrare tutti quanti i dati DTCD, quindi dati di coordinazione. Invece i dati dei mount point passano in chiaro perché sono stream radio, erano comunque pubblici. E no, non servono VPN, a meno che non vai a usarle appunto per superare firewall, in quel caso sì, ma altrimenti no. Se hai il classico VPS, DigitalOcean, OVH, quello che è, funziona perfettamente. Che me la traduci, Gio? Il transcoding non è on demand, ma dovrebbe esserlo. Non ci stiamo nemmeno lavorando perché è un po' complicato, è un po' complicato da fare. E abbiamo sperato che nessuno mettesse troppi transcoding che non hanno nemmeno un ascoltatore. Quindi per adesso facciamo così. Però è giusto, dovrebbe essere on demand, visto che costa molta CPU.